Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Eccoci a voi, buongiorno e benvenuti. Anche oggi apriamo la nostra casa a tutti i genitori e perché no ai figli. Non vanno più a scuola, possono seguirci in ascolto e qui accanto a me, come sempre, c'è Alberto Pellai. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, il tema di oggi si impone perché la maturità è finita e adesso i nostri ragazzi devono decidere cosa fare. E ci sono tantissimi ragazzi e anche tanti genitori, mamma e papà, che sono straordinariamente confusi perché non riescono a capire che ne sarà dei loro figli da qua a 3 mesi. E che ne sarà di noi, esatto. Quindi, genitori. Alberto, tu avevi già le idee chiare? Assolutamente no, guarda, io sono proprio uno di quei casi di confusione all'ultimo stadio, tant'è che mi sono iscritto a medicina, avendo detto fino al giorno prima, farò tutto tranne che medicina. Allora, partiamo dalla lettera di pensieri di padre e poi vi presentiamo i nostri ospiti che ci aiuteranno a vederci un pochino più chiaro, speriamo. Mio figlio ha da poco terminato la maturità. Ha preso un buon voto finale, ma ora siamo già precipitati nell'incubo del dopo. Da 2 anni gli chiediamo che cosa gli sarebbe piaciuto fare dopo la scuola superiore. E da 2 anni lui risponde... boh. E quel boh è rimasto senza evoluzione. Anche adesso, a meno di 2 mesi dall'immatricolazione, continua ad essere un boh. Che facciamo? Lui si sente confuso. Ora capisce che il tempo stringe, ma sembra un esploratore senza bussola. Un giorno è ingegneria, quello dopo legge, quindi economia. L'unica cosa certa, così dice lui, è che non farà medicina come suo padre. Io sono in ansia, mia moglie di più. Ci sembra che il tempo corra e che stiamo tutti perdendo tempo. D'altronde non vediamo come uscire da questa difficoltà. Chi ci può aiutare? Se la deve sbrigare da solo, dobbiamo intervenire noi in qualche modo un po' direttivo. Non va trascurato che per molti corsi vige il numero chiuso e lui rischia di essere tagliato fuori in partenza se non si iscrive. Alberto, allora, davvero un bel caso. Sì, è proprio il caso, direi, che mettiamo... Sul piatto oggi con i nostri esperti e credo che vi potrete molto rispecchiare. Ci sono ragazzi che hanno terminato la maturità, spesso anche con grande successo, ma se gli domandate e adesso che cosa farai? La risposta è boh, quel boh ripetuto che ci ha raccontato il genitore nella sua mail. Come si fa con questi ragazzi così confusi? Allora, e poi sono davvero così confusi? In linea con noi è tornata a trovarci la mitica professoressa Paola Melo, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei ci ha dato consigli per sostenere i nostri ragazzi a fare la maturità. Adesso finalmente è finita perché è un esame anche per noi genitori, specie con il primo figlio. E i ragazzi, molti di loro almeno, non sanno bene da che parte girarsi, dove orientarsi. È davvero così imperante questa confusione, questa incertezza descritta appunto nella mail del nostro papà? È proprio vero, anzi direi... più ancora oggi di un tempo, in tempi di crisi economica. Ora i ragazzi devo dire che sono ugualmente confusi, ma con delle aspirazioni al pragmatismo, cioè cercare di vedere che cosa sarà il mio futuro se seguo le mie aspirazioni, ma queste aspirazioni non riusciranno a darmi un lavoro che mi possa far vivere. Ecco, questo di solito è l'interrogativo che ho sentito più spesso dai ragazzi che abbiamo sott'occhio, cioè seguo i sogni o seguo una strada che mi possa mantenere un domani e pagare lo stipendio, pagare l'affitto, eccetera, eccetera, eccetera, anche per rendermi indipendente dai genitori, ovviamente. Professoressa Melo, e lei ai suoi ragazzi che cosa ha suggerito? Cuore o pagnotta? cuore, possibilmente con un dente che affonda nella pagnotta, perlomeno. Cioè cercare ovviamente di non tradire proprio i nostri sogni, le nostre aspirazioni, anche perché questo è l'impulso primo che un ragazzo deve tenere ben presente per poter affrontare degli studi universitari proficui. Però insomma certamente i sogni, no, carmina non danzanem, e quindi talvolta bisogna anche cercare di trovare una strada che sia poi foriera di possibilità concrete, ecco, lettere come? Lettere storie, lettere arte, oppure matematica, ma matematica per insegnare, per diventare possibilmente ricercatore universitario, per essere impiegato in una industria che ha bisogno di calcoli logici, ecco, avere una passione che però possa dare sbocchi concreti. Professoressa Melo, io so che lei è in viaggio, anche noi continueremo il nostro viaggio per dare ai genitori in ascolto e anche soprattutto ai ragazzi degli strumenti per scegliere bene. E intanto la saluto, la lascio continuare il suo viaggio. Va in vacanza, professoressa Melo? Ma tra pochi giorni, io spero. Allora iniziamo a dirle buone vacanze e poi magari ci sentiremo. Grazie professoressa Melo, buona giornata. Grazie a voi e bravissimi come sempre. Grazie, poi Alberto detto da una prof. E in linea con noi abbiamo altri due ospiti che vi voglio subito presentare, la dottoressa Barbara Rosina, che è direttore del COSP. Il COSP è il Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni dell'Università degli Studi di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Alberto, vuoi salutare il nostro prossimo ospite, così ce li dividiamo come due bravi padroni di casa? Certo, perché il problema di cosa farò dopo non è solo un problema di orientamento, spesso è proprio un problema di confusione, di identità, di pensieri ed emozioni che non riescono a sintonizzarsi bene. Perciò abbiamo con noi uno psicologo e psicoterapeuta, autore tra l'altro del libro Lo psicologo tra i banchi, Erickson Editore, il dottor Marco Vinicio Masoni. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e a tutti. Dottoressa Rosina, lei che orienta, era già orientata dopo la maturità? Ma allora, in realtà in buona parte sì, nel senso che io ho scelto sulla base delle materie che mi interessavano di più alla scuola superiore, quindi ho scelto una facoltà umanistica, ho scelto lettere, quindi ho ragionato più di cuore che non sulle reali potenzialità professionali che mi aspettavano. Adesso è un lusso che i ragazzi si possono ancora permettere oppure no? Ma allora, secondo me sì, nel senso che è comunque è importante che ci sia una certa attenzione ai propri interessi personali, perché altrimenti si rischia di fare una scelta sbagliata e soprattutto non riuscire poi a perseguire i propri obiettivi fino alla fine. Sentivo prima che si parlava di medicina e chirurgia, per esempio, non possono essere fatte soltanto sulla base di una casualità, perché poi la professione che ci si trova a svolgere è una professione e anche il percorso che porta a questa professione sono abbastanza complessi, abbastanza pesanti, sia da un punto di vista diciamo di tempi, di investimento quindi temporale, ma anche da un punto di vista poi di investimento di tipo così psicologico nella professione che si va a svolgere. Facevo riferimento a medicina, ma anche per esempio insomma dei corsi. Alberto Pellai ha giocato un po' col fuoco, dall'oggi al domani ha deciso di fare medicina, che tra l'altro è una facoltà molto impegnativa, ma devo dire che gli è andata molto bene perché si è laureata a pieni voti, ha fatto tante cose. Alberto. Sì, devo dire che a me è andata bene e velocissimamente, prima poi di fargli domande molto più complesse, anche il dottor Masoni ha fatto la maturità e poi sperava di diventare psicologo da grande, quindi ha seguito il cuore e poi ha trovato la pagnotta. Ma io ho seguito due volte il cuore, perché ho fatto architettura e poi psicologia, quindi si può cambiare strada anche a 40 anni, come vede. Un plurilaureato. Ah, il suo è un caso di riorientamento d'adulto, magnifico. Magnifico. Questa casa non è un albergo. Veloci, veloci, siamo tornati perché qua bisogna decidere. La maturità è finita, conclusa, i nostri ragazzi devono scegliere e forse noi dobbiamo aiutarli un po'. Alberto, tu cosa dici? Sì, i genitori devono essere in qualche modo decisivi, aiutare i ragazzi a scegliere, oppure si deve cercare più che altro di capire quali sono le attitudini del ragazzo? Ma se il ragazzo non ha passioni, qua il problema si complica. Guarda, io credo che il dilemma attuale per molti genitori è trovarsi di fronte a figli che nella loro prospettiva stanno seguendo il cuore, mentre i genitori spesso sono molto attenti anche alla pagnotta, o al contrario, genitori proprio come quelli che ci hanno scritto, che si trovano invece di fronte a figli totalmente confusi, in qualche modo non riescono a seguire né il cuore né la pagnotta. Dottor Masoni, ma questa confusione dei neomaturandi rispetto a cosa fare dopo, a cosa è dovuta in termini psicologici? È sempre fisiologica o può nascondere un problema più profondo? No, direi che è sana, perché io ricordo che c'era anche 50 anni fa, solo che c'era una differenza enorme. Pensava il ragazzo allora, non so cosa fare, ma quando poi farò qualcosa avrò uno sbocco sicuro. Ecco. Ora loro non sanno cosa fare, e anche scegliendo cosa fare sanno che poi è durissima, e questo complica le cose. E poi direi che l'adolescente, il ventenne che è ancora adolescente, che dice oggi non so ancora cosa scegliere, sia assolutamente sano e normale, e che la questione sia un'altra, cioè se il ragazzo ha messo a punto nella sua vita un progetto di riuscita o di sconfitta, nel senso che ogni scelta che viene fatta dopo la scuola superiore, ma anche dalle medie alle superiori non cambia tanto, implica una delusione, nel senso che i sogni sono quelli, poi uno va a fare quella facoltà o quel liceo e scopre che c'è anche lì la materia faticosa, insopportabile, il bisogno di studiare, sgobbare, eccetera, e quindi se ho messo a punto una sorta di, lo chiamo un progetto per intenderci, di riuscita, io stringo la cinghia e ce la faccio. Se ho messo a punto qualcos'altro, anche se imbocco una direzione giusta, una facoltà adatta a me, arriverò al fallimento, addirittura in modo più eclatante e più evidente. Quindi la questione è quando il ragazzo progetta un fallimento o una riuscita, e come fanno i genitori a aiutarlo a fare questa scelta di fondo iniziale. La domanda, guardi, mi nasce spontanea, perché lei che consigli darebbe a un genitore per verificare se il figlio questo progetto l'ha messo a punto o no? Cioè, che chiarezza possiamo avere? In generale, ovviamente, ogni ragazzo è diverso, ogni famiglia è diversa, ma se io incontro, cosa che accade nel mio lavoro in continuazione, genitori che mi dichiarano c'è un conflitto forte in famiglia fra noi e i nostri figli, io do quasi per scontato che se il genitore vuole che il figlio ce la faccia, il figlio farà il contrario. Allora il discorso è: o ho costruito durante la vita un rapporto di fiducia, accettazione fra figli e genitori, allora potrò anche suggerire, consigliare, affiancarmi al ragazzo, oppure il ragazzo, per difendere la sua autonomia, il suo sentirsi adulto e grande, si opporrà ai genitori e letteralmente può fare addirittura il contrario, pur sapendo che la via imboccata sarà fallimentare. Io ricordo un ragazzo che perde 4 volte il primo anno di una scuola superiore, alla fine lo porto a me e mi dice: guardi dottore, i miei genitori non la spunteranno, tanto era chiaro in lui questo progetto di non riuscita. Un caso difficile. Ma dottoressa Rosina, il vostro centro dovrebbe aiutare i ragazzi a prendere la decisione giusta, a fare un progetto che li porti a qualcosa di soddisfacente. In pratica che cosa fate? Chi si rivolge a voi? Che tempi avete? Cosa gli fate fare a questi ragazzi per capire esattamente che cosa hanno in testa, o per far emergere quelle che sono invece le aspirazioni, che tante volte vengono magari nascoste e soffocate dal timore, dalla mancanza di autostima, dalle esperienze precedenti? Ma allora, diciamo che partiamo già a offrire le nostre attività d'orientamento dalla terzo, quarto anno delle scuole superiori. Generalmente noi proponiamo sia degli incontri presso le scuole, quindi andiamo nelle scuole a svolgere delle attività, sia di orientamento informativo, sia diciamo un pochino più consulenziale, svolgendo anche dei colloqui individuali, quindi un pochino più mirati per chi non abbia assolutamente idea di quello che potrebbe fare in futuro. L'altro aspetto invece che noi teniamo molto a considerare è il fatto che lo studente, il ragazzo, debba rendersi in qualche modo parte attiva, e quindi non ci limitiamo soltanto ad andare noi presso le scuole, ma cerchiamo soprattutto di coinvolgere i ragazzi in attività che possano in qualche modo rivelargli meglio quali possono essere le discipline da un lato e le facoltà, soprattutto quello a cui siamo molto, delle lezioni universitarie, proprio per dare l'idea di come magari discipline che si affrontano nella scuola in un determinato modo, poi magari in realtà nell'università vengano affrontate in maniera diversa, con una specializzazione differente, e ovviamente poi svolgiamo, oltre ai classici open day, anche delle consulenze un pochino più mirate di carattere individuale, che durano circa un 40-45 minuti, svolte da specialisti di orientamento, da psicologi, che appunto incontrano ad uno i ragazzi e insomma ascoltano quelle che possono essere le loro problematiche e le loro attitudini. Ovviamente cerchiamo di non farlo all'ultimo momento, perché questo è un aspetto che ci teniamo a sottolineare, cioè se un ragazzo viene da noi confuso oggi o addirittura a settembre, probabilmente il problema è da far risalire un pochino più di tempo addietro. E allora lì vuol dire che non ce la fate, non vale, non è mai troppo tardi? Sì, ovviamente ci proviamo, però spesso volte devo dire la verità, chi viene a chiederci un intervento chiede più magari una conferma rispetto alle informazioni piuttosto che ad alcuni aspetti molto pratici di approccio all'università, ma è difficile che sia proprio completamente confuso. Ecco, qualche volta emerge qualche problema di conflitto tra quelle che sono le aspirazioni dei genitori, soprattutto magari coloro che hanno una professione ben precisa, rispetto magari a dei figli che vorrebbero fare tutt'altro. In quel caso allora il problema si fa molto lì, c'è molto lo scontro spinoso. Ma volevo chiedere al dottor Masoni, concretamente, ai nostri genitori, al papà che ci ha scritto, quindi ai nostri genitori che si trovano di fronte al ragazzo che dice ma non so che cosa fare, e ripete, no, nella mail è ripetuto più volte questo boh, non so, boh, devo pensarci. Lei cosa, come lo aiuterebbe? Ma lo aiuterei dicendo ai genitori e al ragazzo che essere confusi, l'ho già accennato, è normale. Fisiologico, sì. E quindi non soltanto è normale, ma io genitore apprezzo che tu ti ponga la questione e senta di essere indeciso, vuol dire che non sei superficiale, che non butti fuori le cose, cioè leggerei nel problema la parte chiamata risorsa, sì. Tenderei a vedere qualcosa di buono in quello che fa il ragazzo. Dopodiché direi ai genitori che se c'è quel tipo di rapporto a cui accennavo prima, di conflitto col figlio, per cui tendenzialmente il figlio sarà oppositivo, farà il contrario in pratica, anche se è una semplificazione eccessiva, direi ai genitori fate 2-3 incontri, non di terapia che non c'è bisogno, ma per capire cosa occorre fare oggi con i ragazzi, perché non sono più ragazzi di 30-40 anni fa, sono diversi, hanno altri bisogni, hanno altre esigenze, sono più hanno dignità che a noi mancavano alcuni decenni fa, per esempio, sentono diritti che a noi sfuggivano, hanno più fonti di informazione, sono più pessimisti perché il futuro lo vedono comunque annuvolato e a volte nero, e quindi occorre capire cosa sta accadendo a loro. Il genitore dice spesso una frase, la sentirete tante volte anche voi, io alla tua età facevo già, ero già laureato, diplomato, sposato, lavoravo, eccetera. Suggerimento ai genitori: se voi aveste oggi 20 anni in questo mondo, con questi problemi, cosa fareste, cosa vi chiedereste? Cioè avvicinatevi ai figli per capire con che sguardo guardano il mondo, e in questo modo, in modo quasi automatico, li aiuterete. Mi sembra un ottimo suggerimento, Alberto, anche noi sentiamo tante volte, forse lo diciamo anche noi, ti sarà scappato anche a te, no? Certo. Con i tuoi bambini, di dire io alla tua età facevo, io alla tua età pensavo, avevo già... Quindi questo già mettiamolo da parte. Devo dire che la questione però qua si fa particolarmente stringente, perché siamo proprio in una situazione tipo last call all'aeroporto, last minute. Cioè qua il tempo stringe. Noi non abbiamo una direzione, e c'è un altro spettro che arriva all'orizzonte, che è quello dei test d'ingresso, perché moltissime facoltà hanno adesso il numero programmato, sì. E tu devi aver capito se vuoi andare nella direzione, per esempio, di una facoltà che ha il numero programmato, perché se tu salti la last call, l'ultima chiamata, e non ti presenti al test d'ingresso, sei per finita. Quest'anno quella facoltà te la puoi proprio sognare. Quindi una domanda veloce alla dottoressa Rosina: è meglio iscriversi a un test d'ingresso di una facoltà per cui si hanno ancora molte incertezze, oppure dire no, non sono sicuro di volerla fare, io non mi iscrivo al test d'ingresso? Cioè la perdiamo quest'ultima chiamata o la prendiamo comunque? Ma no, io direi che se solo si ha un minimo di dubbio sul fatto che questa potrebbe essere la scelta giusta, si può comunque provare, se non altro è anche un esercizio o semplicemente che un'esperienza che può essere positiva o negativa a seconda dell'esito, che può comunque influenzare la scelta, perché no? Sinceramente nel dubbio è meglio non saltare la chiamata, dopodiché sinceramente non anche se, per dire, la persona o il ragazzo dovesse passare il test, non è che siccome l'ha passato deve scriversi. Sì, per non forza. È che lo vengono a prendere a casa, no? Ecco, mentre se poi volessi andare e non sei iscritto lì, non c'è modo di entrare. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati, come promesso, ed è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Non lo riconosco più. Genitori e adolescenti, un'alleanza possibile. Se volete ricevere questo libro a casa dovete essere molto veloci. Essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it e in questa mail dovete mettere il titolo del libro, Non lo riconosco più, i vostri recapiti, numero di telefono compreso. In collaborazione con IBS.it. Dopo la maturità, che confusione, Alberto. In questa ultima parte di trasmissione però vogliamo dare consigli molto molto pratici. Allora, voi genitori che siete in queste serate seduti intorno a un tavolo rotondo delle negoziazioni, te lo sei visto rotondo, con il vostro figlio e cercate di capire qual è la facoltà che lui vuole fare, o magari state cercando di indirizzare vostro figlio alla facoltà che voi vorreste che lui facesse, sedetevi con calma, prendete carta e penna in mano, perché ci facciamo aiutare adesso dai nostri esperti. Comincio dalla dottoressa Rosina, perché vorrei capire, nel mese di agosto dove tutti fanno vacanza, voi che avete un centro di orientamento probabilmente lavorerete anche per aiutare questi studenti ancora così confusi. Cosa potrebbero venire a cercare da voi, al vostro COSP, per esempio dell'Università degli Studi di Milano? Che genere di aiuto possono trovare presso il vostro servizio? Un ventilatore, sicuro. No? Sì, allora diciamo che ovviamente devo dire la verità, per fortuna negli anni abbiamo visto che la scelta viene un pochino anticipata, cioè nel periodo, diciamo così, di agosto sì, abbiamo richieste, ma più di informazioni dell'ultima ora, proprio molto semplici, legate a devo fare il test, ci sono dei corsi di preparazione, sì, piuttosto che le scadenze per le iscrizioni, ma non ci vengono a chiedere cosa granché, anche perché devo dire le strutture didattiche dell'università sono chiuse, le lezioni non ci sono, noi praticamente siamo aperti sempre tranne una settimana, che è quella di Ferragosto sostanzialmente, perché comunque non viene nessuno normalmente in quel periodo a chiedere. Per il resto siamo appunto aperti, possono venire da noi al nostro sportello, possono scriverci via mail e possono chiedere tutte le informazioni possibili. Come dicevo, sostanzialmente però è bene non arrivare proprio all'ultimo momento, perché il rischio grosso è quello di fare una scelta molto, molto affrettata, anche se una cosa che mi sento di dire è che insomma non bisogna neanche drammatizzare un eventuale errore del primo anno. Insomma, noi vediamo tantissimi ragazzi che già al primo anno, se si sentono di avere sbagliato, si spaventano i genitori con loro, invece secondo noi vale la pena insomma avere la possibilità di anche sbagliare e l'anno successivo eventualmente fare un trasferimento o cambiare, piuttosto che perseguire una strada. Ah, certo, certo, sì. È importante secondo me sottolineare questo aspetto. Dottor Masoni, invece io vengo a lei per chiedere concretamente, mettiamoci questo ragazzo davanti, come possiamo aiutarlo a capire che cosa gli piacerebbe fare? Sono confusi, abbiamo visto che in parte ne hanno ragione, viviamo in una società che di garanzie non ne dà, quindi rispetto a noi sicuramente hanno dei problemi in più i nostri ragazzi, perché noi quando ci siamo laureati o abbiamo scelto il nostro corso di laurea sapevamo che bene o male un lavoro l'avremmo trovato, insomma potevamo con buone probabilità concretizzare il nostro sogno, la nostra aspirazione. Per i ragazzi di oggi la cosa si fa più difficile, ma come fare ad aiutarli? Beh, io penso che comunque anche quelli che dicono non so cosa fare abbiano qualche idea, così nella loro testa, fatto già delle scelte di larghissima massima. se sono legato in disegno non vado a fare l'Accademia di Brera, per esempio. Se la matematica è uno spauracchio eviterò di fare facoltà scientifiche, questo lo sanno già, questo è già presente. Per il resto io direi al ragazzo che ho davanti: scegli la facoltà che ti pare, perché è un'impressione, tenendo conto che già le scuole le avranno fornito informazioni per la scelta, l'orientamento fa anche questo, fornisce indicazioni, fornisce dati, fornisce documentazione, i ragazzi hanno fatto il giro, hanno visto le facoltà, hanno parlato, quindi sanno già delle cose. Una volta scelta la facoltà, tenendo presente che non sarai certo della scelta, che ci sarà un margine di dubbio anche vasto, ti posso aiutare durante il percorso. Un esempio: da 15 anni noi facciamo un corso che è abbastanza noto, è chiamato Studiar bene senza averne voglia, che viene fatto da comuni, da scuole oppure nel privato, e serve a dare ai ragazzi la carica, toccando quel progetto iniziale al quale accennavo prima, una carica per fare ciò che a loro pareva adesso difficile, faticoso, noioso, eccetera. Quindi la scelta la fai perché hai già qualche mattone per scegliere. Durante il percorso sarai aiutato. Mi piace questo, me lo dica di nuovo, oggi. Studiare bene anche? Senza averne voglia, che è un paradosso, un ossimoro. La chiameremo di sicuro dopo l'estate e ce ne facciamo fare uno in diretta. Senta, di ma corsi. Va bene per i piccoli, grandini, grandicelli, tutti? Va bene per le scuole medie e per gli universitari. Fantastico, linguaggio, ma la tecnica è la stessa. Alberto, ci scriviamo un po' anche noi. E a proposito di studiare bene, chiedo ad entrambi, dottoressa Rosina e dottor Masoni, se il prepararsi a un test di ammissione non sia comunque una piccola sfida, piccola grande sfida, che già in qualche modo orienta, cioè pone un obiettivo a brevissimo termine, mette alla prova, fa in qualche modo giocare una sfida con se stessi e con gli altri. E in questo senso, qual è allora il miglior modo per prepararsi a un test d'ingresso, un test di ammissione a una facoltà che ha un numero programmato? Dottoressa Rosina? Ma allora, sicuramente, come dicevo già prima, il prepararsi ad un test è già un obiettivo neanche tanto piccolo, perché alcuni test sono tipo quello di medicina, ma anche gli altri sono molto selettivi. Diciamo che la preparazione ovviamente non può limitarsi soltanto agli ultimi mesi o alle ultime settimane, ma sostanzialmente dovrebbe riguardare un po' tutto l'ultimo anno della scuola superiore, soprattutto per quelle materie che sono oggetto della prova. L'altro aspetto è che comunque noi a nostra volta organizziamo delle settimane di preparazione intensiva che si svolgono di solito l'ultima settimana d'agosto, prima che si svolgano appunto i test ai primi di settembre. E oltretutto, colgo l'occasione per dire, me lo faceva pensare prima anche il dottor Masone, anche noi poi nel corso del primo anno organizziamo dei corsi sul metodo di studio, quindi per imparare a studiare appunto proprio in relazione al fatto che spesso quello e come si è studiato nell'ultimo anno della scuola superiore, anche magari quella materia che poteva piacere, il primo anno di università può vedere uno spaesamento rispetto a metodi e contenuti differenti. Beh, ai tempi nostri, Alberto, non c'erano tutti questi aiuti. Dottor Masoni, sbaglio? No, non c'erano, ma perché era più semplice, c'era più certezza, c'era una vita più allegra, semplice e serena, il futuro era luminoso. Adesso stiamo parlando di studenti confusi perché non sanno cosa scegliere, ma c'è proprio anche il problema di studenti invece che si disorientano, perché loro saprebbero cosa scegliere, provano a fare questi test di ammissione che sono molto selettivi e non riescono a entrare nel numero di quelli che vengono ammessi. Come si fa a in qualche modo sostenere uno studente che deve esporsi all'incertezza di un esito che non è completamente sotto il suo controllo? Dovremmo ricordargli che il vincente sa che per lo più si perde, innanzitutto, e che quindi la vita richiede insistenza più che uno sforzo prussiano iniziale e basta. Quindi sono certo che quella mia scelta è la mia scelta, rifarò il test d'ingresso un'altra volta, altrimenti abbasso i miei obiettivi e cambio facoltà. Ma la sconfitta a volte diventa uno sprone per crescere più e più in su del gregge. Allora, salutiamo i nostri esperti ringraziandoli. La dottoressa Rosina, grazie. Grazie a voi. Dottor Masoni, grazie. Grazie a voi e buona giornata. È stato davvero prezioso. Buona giornata a te anche, Alberto. Ciao Nicoletta, sabato prossimo. A sabato prossimo. Buon sabato da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.